Dunque, pochi giorni fa, quando ancora Conte non si era dimesso e si era alla ricerca dei responsabili, il Movimento 5 Stelle aveva messo tre paletti, che erano un po' tre paletti che portavano a un vicolo cieco. Il primo era che il nuovo Presidente del Consiglio doveva essere Conte, che non si tornava indietro da Conte. Il secondo era che non bisognava parlare con Renzi. E il terzo, aggiunto dopo, in seguito alle operazioni giudiziarie, era che non bisognava parlare con senatori dell'UDC dopo le indagini sul segretario Cesa. Di questi paletti, in realtà, formalmente almeno, poi possiamo parlare di retroscena, ma formalmente, secondo la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle, l'unico che sta in piedi ancora è esattamente quello che, per cui si chiede un reincarico a Conte. È saltato il no a Renzi, di fatto, questo è quello che oggi la delegazione del Movimento 5 Stelle andrà a dire a Mattarella, glissando sulla figura di Renzi e su Italia Viva, semplicemente richiedendo un rincarico per Giuseppe Conte. Quindi in questa fase delle consultazioni, a questo giro, la posizione del Movimento 5 Stelle sarà in qualche modo simile a quella espressa ieri dal Partito Democratico. Chiedono un rincarico a Conte e si prova a ricostruire la maggioranza. Ecco, sulla posizione compatta, diciamo, dietro a Conte, c'è stato un cambiamento rispetto alla settimana scorsa, penso quando si è aperta la crisi con le dimissioni di Conte, quando Di Maio aveva forzato forse un po' la mano a Conte su questo, schierandosi in difesa di Bonafede. Sì, Di Maio gioca una partita tutta sua, che andrà decifrata e che sicuramente risponde a delle logiche sue. La mia opinione è che Di Maio stia cercando di utilizzare questa crisi per spostare il Movimento 5 Stelle su posizioni più moderate, più governiste, e per trasformarlo di fatto in un'altra cosa, con o senza Conte. E Di Maio, del resto, è quello che è stato indicato, secondo quello che si dice, da Renzi come possibile Presidente del Consiglio al posto di Conte. Quindi è un tentativo di bypassare questa fase e dare formalmente, in maniera corretta, il Presidente del Consiglio alla prima forza parlamentare e contemporaneamente rompere il Movimento 5 Stelle e riuscire a evitare che ci sia un reincarico a Conte. Quindi sì, Di Maio gioca una sua partita, però è vero anche quello che da tempo dicono gli esponenti del Partito Democratico: Conte in questa fase, per tutta una serie di motivi, è l'unico che può garantire non solo la sintesi della maggioranza, ma soprattutto può garantire che il Movimento 5 Stelle non imploda. Se voi ci fate caso, c'è sempre un gioco delle parti tra Di Maio e Di Battista, e in questa fase Di Battista è ultracontiano. C'è un motivo probabilmente in questo, perché Conte viene visto come l'argine alle possibili manovre di Di Maio e dei più governisti. Anche su questo la mia opinione è che se dovesse, dopo il primo giro, saltare la figura di Conte, gran parte della squadra di ministri attuale del Movimento 5 Stelle, e io penso anche gran parte dei parlamentari, non si farebbero grossi problemi a riconoscere che la fase di Conte è superata e quindi a provare a costruire un altro tipo di governo, anche con questa maggioranza. Ecco, rispetto invece all'impatto che sta avendo questa crisi di governo, diciamo, sulle preferenze verso i partiti, Utrend ha pubblicato oggi una media dei sondaggi per AGI in cui dice che sia il Movimento 5 Stelle che Forza Italia sono fortemente in crescita. In particolare il Movimento 5 Stelle ha guadagnato 6 punti percentuali rispetto a 2 settimane fa nel percentuale di gradimento. Come possiamo leggere questo dato? Io penso che possiamo leggerlo col fatto che il Movimento 5 Stelle, per come è costruito, per il tipo di retorica che usa, per il fatto di essere sostanzialmente figlio di una fase politica che possiamo chiamare in maniera un po' schematica e semplicistica l'anti-berlusconismo, ha bisogno di un nemico. Nel momento in cui trova un nemico, riesce a andare oltre le sue contraddizioni, le sue incoerenze culturali e politiche, le sue differenze, e puntare tutta la sua energia contro quel nemico. Negli scorsi giorni quel nemico è evidentemente diventato Matteo Renzi, per cui lo stesso Di Battista, che era un separato in casa negli ultimi mesi, ha detto: non siamo mai stati uniti come in questo momento. Quindi tutta la retorica del Movimento 5 Stelle è costruita attorno a una polarizzazione. Il fatto di avere un nemico probabilmente ha rinforzato la l'appeal elettorale del Movimento 5 Stelle. Su questo ci sono due contraddizioni, se posso dire. La prima è che evidentemente la linea della polarizzazione, in cui Renzi è il male e quindi il nemico da combattere in questo momento è Renzi, dal punto di vista parlamentare non ha funzionato. Quella che dai parlamentari viene chiamata, per semplicità, la linea Travaglio-Casalino, cioè che Conte andasse in Senato e facesse con Renzi con quello che ha fatto con Salvini, evidentemente non ha funzionato, per cui probabilmente nei sondaggi la linea della polarizzazione funziona, ma nelle tattiche parlamentari non funziona. Ecco, proprio su questo volevo farti un'ultima domanda veloce, nel senso appunto rispetto alla questione del nemico in Renzi, che però è un nemico con cui bisognerà a questo punto trattare per forza, una trattazione che è già iniziata ieri con la chiamata di Conte a Renzi. Cioè, quanto impatterà questa retorica dei 5 Stelle per cui hanno bisogno di un nemico nelle loro possibilità di contrattare e cosa ci si può aspettare da questa nuova possibile maggioranza nel caso e da questa contrattazione? Nelle ultime ore i dirigenti del Movimento 5 Stelle che dovevano andare a portare la posizione dei 5 Stelle da Mattarella erano molto in difficoltà, proprio perché hanno capito che in qualche modo, come dicevo all'inizio, dovranno glissare su questa, sull'antirenzismo, cioè dovranno dire che vogliono che Conte sia incaricato e glissare sui veti a Renzi. Questo è un elemento. Va detto anche che Renzi ci ha messo del suo, perché gli ultimi 2 giorni di notizie, di video e di elementi che arrivano dalle relazioni internazionali, dall'ospitata internazionale di Renzi presso i sauditi e quindi da suoi possibili conflitti di interessi, oggettivamente facilitano le posizioni più antirenziane e lo mettono in difficoltà anche rispetto ai suoi parlamentari. Una delle formule di compromesso tra l'antirenzismo e la necessità di avere una maggioranza per alcuni dentro il Movimento 5 Stelle era esattamente quello di dire: non parliamo a Renzi ma parliamo ai deputati e ai senatori di Italia Viva, perché loro a un certo punto dovranno capire che Renzi fa una partita sua, una partita personale, e quindi probabilmente dal punto di vista della retorica, della comunicazione, ancora questa sarà la linea. Dopodiché i tempi stringono, quindi vedremo Mattarella che sintesi avrà. E io penso anche che bisognerà vedere come il Movimento 5 Stelle oggi uscirà in conferenza stampa al Quirinale e in che modo rappresenterà pubblicamente le posizioni che ha espresso Mattarella.